Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Ecco, è passato. Anche quest'anno abbiamo festeggiato il Natale, ma in realtà forse è proprio da oggi che possiamo davvero goderci un'atmosfera più rilassata e di festa. Intanto auguri. Fino a ieri correvamo, organizzavamo, impacchettavamo. Oggi possiamo finalmente stare un po' tranquilli con noi stessi, dedicarci del tempo, volerci bene e anche incontrare le persone che ci sono care, amici e parenti, non perché dobbiamo farlo, ma perché vogliamo farlo. Io sono molto contenta che voi mi stiate ascoltando, perché vuol dire che sono una persona che volete incontrare, anch'io voglio incontrare voi. Cosa abbiamo pensato di bello per oggi? Bene, la puntata di oggi sarà un percorso fatto di incontri, consigli, ci muoveremo nel clima della festa, però con l'intenzione, come sempre, di stare meglio con noi stessi e con le persone che amiamo. Ho invitato un coach che mi affianca in questa giornata speciale, lo conoscete molto bene anche voi. Alberto Pellai, ciao Alberto. Ciao Nicoletta, auguri a tutti. Medico e psicoterapeuta. Alberto, è sempre bello occuparsi del tempo delle feste. Tra l'altro dentro ci sono tantissime opportunità per il nostro benessere, anche per la nostra salute. Sì, è un tempo differente. Tra l'altro il tempo della festa è proprio un tempo che ci tiene in connessione con gli altri, fa battere il cuore, fa fermare un po' il tempo, ci tiene sospesi, ci trova tutti intorno a un tavolo, ci fa venire voglia di fare festa realmente. E tra l'altro oggi tu hai preparato una grande festa, sì, per i tuoi ascoltatori. Guarda Alberto, tu non sei solo, perché qui in studio per farci gli auguri, per introdurci al clima della festa, per farti un grande regalo, per me è un grande regalo e so anche per voi, c'è una persona molto speciale, ma dato che siamo ancora in clima di feste, quindi di sorprese, non ve la presento subito, ve la faccio scoprire ascoltando la sua voce. Così innocentemente, ma innocente non sei, come me, come tutte le scelte, come tutte le volte. Lo canta tante volte all'interno della sua nuova hit Tra passione e lacrima. È bellissimo, soprattutto per noi avere qua, tutta per noi, Emma, uno dei personaggi dell'anno. Ciao a tutti, auguri. Auguri, siamo davvero molto felici di averti con noi. Quest'anno tu ne hai veramente fatte di tutti i colori. Emma, grande successo al Festival di Sanremo, dove ti sei classificata seconda cantando con i Modà. Hai aperto i concerti di Gianna Nannini, di Vasco Rossi, hai ballato anche nel programma di Milly Carlucci, la lista potrebbe continuare all'infinito. Insomma, io ti devo dire che quasi sono stanca io a ricordare tutto quello che fai. Chissà tu che queste cose le hai fatte davvero tutte. Dove trovi tutta questa energia, bella Emma? Ma nel sapere che la gente fa piacere vedermi, ascoltarmi, seguirmi, quindi sì, sicuramente ci sono dei giorni in cui vorrei sotterrarmi nel letto, però poi mi rendo anche conto che questo non è un lavoro da fabbrica, quindi c'è chi sta peggio, quindi si fa tutto con tanta volontà e con tanta gioia. Immaginavi, se ripensi a te stessa 3-4 anni fa, che la tua vita sarebbe diventata quello che è diventata? Ma lottavo affinché avvenisse tutto questo cambiamento, però devo dire che la realtà ha superato nettamente l'immaginazione. E immaginavi che il successo avrebbe avuto i suoi lati positivi, ma magari anche i lati negativi che nessuno ti aveva mai raccontato? Beh sì, di solito è un luogo comune, no? Spesso ho sempre sentito parlare che il successo ha dei lati positivi e dei lati negativi, poi tutto secondo me è relativo ai propri punti di vista. Nel mio caso sì, sicuramente ci sono dei lati negativi, ma vengono comunque celati dai lati positivi, sono comunque certo, tantissimi. E poi mi piace oggi raccontare la tua storia, Emma, in questo momento in cui, insomma, adesso è un momento di festa, ma la festa in quest'anno la sentiamo in un modo un po' diverso, quindi raccontare delle storie positive come le tue secondo me sono ricaricanti a proposito di energia. Beh sì, io poi parto dal presupposto che anche se ci sono periodi in cui si tocca il fondo, si può sempre risalire, nel senso deve, è una, è un senso di slancio che deve partire da noi stessi. Sì, è sicuramente vero. Tutti abbiamo passato nella vita e passeremo dei momenti bui, dei momenti meno bui, dei momenti felicissimi, però bisogna sempre trovare la giusta misura per vivere tutte queste emozioni. Senti Emma, c'è una persona che ti ha descritto in un modo che ci ha molto colpito e probabilmente ha colpito anche a te. Senti un po'. È apparsa come un lampo in una miseria di cielo che ci aveva abituati alla sonnolenza del buio. Tutto in lei è vita, passione, pulsione, proiezione. Quasi la voce, bellissima, fosse il prolungamento di un corpo elettrico e sensuale, sì, ma di una dolcezza disarmante. Non so, non vedo e non sento oggi chi possa come lei cantare ogni cosa, in ogni tempo e ritmo, con tale emozione da infilarsi sotto la pelle e restarci lasciandoti felice e pieno di mondo in quell'attimo ipnotico che sa creare. Beh, tu hai riconosciuto il professor Vecchioni. Noi ti abbiamo vista sorridere e vorrei capire che emozione fa una descrizione di questo tipo da quello che tu chiami il professor Vecchioni, perché è un vero professore. Ma a livello, io quando ho ricevuto questa mail con queste parole, sinceramente ho pianto, perché da lui sicuramente mi aspetto un'eleganza e una bontà immense, ma con quelle parole veramente ha superato qualsiasi cosa, perché io mi metto sempre, io penso che comunque nessun altro artista si sarebbe esposto così tanto nei miei confronti, perché comunque, parliamoci chiaro, qui ognuno sta a guardare il suo e pensa per sé. Invece mi sono resa conto che ci sono persone che, nonostante tante altre cose, trovano il tempo e l'emozione, la forza di aiutare, per certo, aiutare magari un artista emergente come posso essere io, quindi lo apprezzerò per tutta la vita. Alberto, una bella lezione questa, che noi possiamo trasferire anche in questi giorni di festa, anche nelle nostre relazioni. Sì, io credo che la cosa bella del commento di Emma è che non l'ha usato tanto per parlare di se stessa, ma per parlare delle qualità di chi è riuscito a dire di lei delle cose molto belle, per cui ci ha dato proprio un esempio concreto di cosa vuol dire guardare nel cuore delle cose. Secondo me ci ha dato anche la dimostrazione di come, quando ti senti raccontare bene, puoi trovare piacere per te, ma puoi proprio trovare piacere invece nella vita e nel mondo, cioè capire che ognuno di noi è parte di un sistema dove ognuno è una pedina che serve al bene di tutti e non solo al bene di se stessi. A proposito del professor Vecchioni, di Roberto Vecchioni. Ma si sveglierà il tuo cuore in un giorno d'estate rovente in cui sole sarà. Cambierai la tristezza dei pianti in sorrisi lucenti, tu sorriderai e arriverà il sapore del bacio più dolce, un abbraccio che ti scalderà. Stiamo ascoltando la canzone di Sanremo, un successo enorme, enorme come si dice, e Alberto mi faceva notare una cosa e voglio proprio che te la racconti lui, perché lui è stato molto colpito per un tratto del tuo carattere che è emerso in quell'occasione, ma che secondo me è molto in continuità con quello che Emma ha appena detto, cioè eravate dati per vincitori, eravate su tutte le copertine, ha vinto a sorpresa Roberto Vecchioni e da quel momento voi avete proprio cominciato a rilasciare interviste, sia tu che i tuoi colleghi Modà, dove molto molto umilmente avete considerato e avete raccontato come un onore essere arrivati dopo di lui, e secondo me avete dato una lezione da una parte di veramente grande semplicità, grande umiltà, e dall'altra di enorme rispetto, riconoscendo che ci sono delle persone migliori di noi e che noi abbiamo un percorso da fare. Assolutamente concordo, ma non ci trovo niente di sorprendente nella vittoria di Vecchioni, perché cioè, secondo me non era una sorpresa, secondo me quella canzone doveva vincere, perché io quando ho letto per la prima volta il testo, solo sentendo il testo mi è salito proprio il nodo alla gola, quindi secondo me ha vinto perché doveva vincere, perché comunque ha colpito la giuria popolare, ha colpito il pubblico. Sì, ma è stato il tuo atteggiamento che, di cui noi prendiamo spunto in questo giorno proprio di festa, che sì, ci fa riflettere su delle cose che... cioè, per me Sanremo non è una gara, Sanremo è una grande possibilità che non viene data a tanti, e nel momento in cui ti ritrovi dentro, cioè io l'ho vissuta veramente con la gioia di poter salire sul palco, dove per anni ho visto salire tanti artisti bravissimi, certo, e sono accompagnata da quell'orchestra meravigliosa, condividere appunto quei giorni con gli altri artisti. Io è stato proprio nell'occasione di Sanremo che ho conosciuto questo mio mito, il mito del professore, a cena tutte le sere con lui a parlare di musica e di vita in generale. Quindi per chissà me Sanremo, se ci sì. sta ascoltando il professore in questo giorno di festa. Ma noi nella seconda parte della trasmissione parleremo di temi molto vicini al tema delle feste, la famiglia, la nostalgia, le emozioni associate ai ricordi per le persone cui abbiamo voluto bene. Se tu dovessi dirci chi sono le persone che ti hanno permesso di essere la giovane donna che sei, quelli a cui devi gratitudine perché il loro esempio, il loro messaggio ti ha reso la Emma che sei adesso, a chi daresti questa gratitudine? Chi ha fatto la differenza, insomma, nella tua vita? Chi metaforicamente metti nel tuo... me lo metto tra virgolette naturalmente, presepe dei ricordi e della gratitudine? Ma sicuramente in primis la mia famiglia, tutta quanta, non, mia madre, mio padre, mio fratello, i miei nonni, i miei parenti, cioè i miei zii, i miei cugini. Noi fortunatamente, forse perché siamo un po' terroni del sud, abbiamo questo senso di famiglia molto, molto forte e molto unito. E poi sicuramente tanta gratitudine ad una grande donna che è Maria De Filippi. Certo. Comunque mi ha accolta, mi ha insegnato a crescere, a camminare, e tuttora continua a seguirmi e ad aiutarmi, quindi è giusto che anche lei si senta, insomma, fa parte del mio presepe anche lei. La mettiamo nel tuo presepe, vicino ai pastorelli, un pochino sì. più avanti dei pastorelli la mettiamo. Vabbè, dai, facciamo... Cosa mettiamo? Facciamo i Re Magi, quindi sì. Maria, la mia famiglia e la mia casa discografica. Va bene. Mi portano oro, incenso e dischi. Alberto. Ma io, per entrare nella prossima domanda, chiederei di sentire un piccolo... perché abbiamo sfrucugliato nei tuoi CD, abbiamo trovato una canzone che ci ha molto colpito. Una lontananza nuova, rivisitata. Sì. Beh, io sono amante di Domenico Modugno e in generale della canzone d'autore, un po' di quella che non se ne sente più, magari tantissimo, che se c'è ancora chi fa musica d'autore. Avevo una passione per questa canzone ed ero convinta che con un arrangiamento moderno sarebbe diventata attualissima, perché il testo... che ha scritto magari 30 anni fa Riga Bonaccorti, ancora un testo che ha un senso e un valore. Ma secondo te ci sono ancora dei testi così? Testi di oggi? Sì, riescono? Riusciranno a trovare una Emma fra 30 anni che cambiano lì? Un po'? Ce ne sono, il problema è che ce ne sono talmente tanti, c'è un po' di dispersione secondo me nell'ambiente musicale, ecco perché magari ci sono delle cose che passano un po' inosservate, invece meriterebbero maggiore attenzione. Prima c'era la Canzonissima, il Cantagiro, cantavano tre artisti. Adesso, quindi rimanevano. Adesso la musica è ovunque, su internet, negli iPod, in radio, in televisione, quindi magari non si fa più attenzione magari a determinate sottigliezze che però fanno la differenza. Però secondo me c'è ancora chi scrive grande musica in Italia, ci sono degli ottimi autori, ci sono dei grandi artisti. Ti faccio questa domanda che è relativa alla paura, perché per esempio sei stata molto coraggiosa quando uno fa una cover di un brano che è un po' nella mitologia di tutti, come Di sicuro i confronti, guarda lei con Domenico Modugno. Ma ti faccio una domanda sulla paura, perché lo commentavamo anche prima di andare in onda, ti abbiamo anche visto quest'anno nel programma di Mili Carlucci, dove tu in una serata hai realmente conquistato la scena, hai imparato un ballo, lo hai interpretato in un modo che ha sorpreso la giuria, e io mi sono veramente domandato, questo è proprio coraggio, intraprendenza, si vede che aggredisce la vita, ma mi sono anche detto, chissà, per essere sempre così all'altezza di ogni aspettativa, come si gestisce Emma la paura? Come se la tiene dentro? Ti capita di avere paura? O io dentro non tengo niente. Quando ho paura, quando sono ansiosa, si vede un tono un miglio e lo dico che sono ansiosa. Perché questo ti scarica, cosa dice? Paura, sì, paura. Sì, sì, no, è proprio, a volte è proprio sclero. Cioè, però è normale, è un modo per buttarla fuori. Però... Ma che cos'è che ti fa paura? Sembra non avere paura. Ma di solito è quel senso di non essere, di non sentirsi mai all'altezza della situazione, di sbagliare qualcosa, però poi la combatto vivendo le cose poi in maniera semplice, nel senso mi butto, ecco, mi butto, e quindi credo che poi la franchezza, la semplicità ti ripaghino comunque sempre. Alberto, quindi anche Emma, che sembra così sicura ma di sé, no. Ecco, tutto il contrario. Veramente una palestra continua questa. Sì, credo che una delle cose che si è vista tanto, insomma, guardandola lavorare, io quella sera ero veramente colpito, è che poi lei si butta al 100% con un impegno straordinario. Senti, prima di salutarti, Emma, ho chiesto ad Alberto di individuare un tratto psicologico che lui ha trovato rilevante nel tuo lavoro. Insomma, io gli ho chiesto di fare da psicoterapeuta, quello che è, una valutazione del nuovo CD, una cosa che possiamo fare solo noi di Essere Benessere. Perché, Alberto, potremmo consigliare l'ascolto in queste vacanze di Natale ai nostri amici, e a chi in particolare potremmo consigliarlo? Ma guarda, io sono proprio entrato nelle canzoni, entrato dentro ai testi, che si sposano benissimo col suo modo di interpretare. Ho trovato che questo è veramente un CD al femminile, cioè racconta, partendo dal titolo Sarò Libera, un modo di pensarsi come giovane donna, come una ragazza. C'è una canzone che si intitola Protagonista, veramente un CD da protagonista, ma non della musica, un po' della vita, con molta semplicità racconta punti di debolezza, con molta forza cerca di raccontare che cosa ci rende forti nelle relazioni con gli altri. Effettivamente insegna ad avere paura di alcune cose nelle relazioni, ma di saperle riconoscere, e quindi poi non aver paura di raccontare che se certe cose non vanno bene nella vita bisogna veramente affrontarle e saperne venire fuori. Io l'ho trovato, lo farei davvero ascoltare alle ragazze, perché secondo me è molto dalla parte delle ragazze, ma ti dirò che quasi paradossalmente lo farei ascoltare a molti ragazzi, a molti perché uomini, così? Perché gli insegna un po' con che nuovo paio di occhiali le nuove donne di oggi ci stanno guardando. Come dovrebbero un po' trattare tutte le donne del mondo, che meritano comunque sempre il rispetto massimo, no? È vero, sono questi dei temi su cui noi vorremmo tornare, che magari Emma tornerà a trovarci. Tra l'altro, guarda, ha una canzone molto, molto delicata e molto intensa, anche dedicata all'anoressia. So che oggi non è il giorno per parlare di, però... ma devo veramente dire che secondo me riesce a toccare proprio le corde delle ragazze. Emma, sì. Ribadendo che appunto i problemi non sono, sì, sicuramente quando l'amore finisce, tutte queste robe qui, è giusto che si soffra, abbiamo sofferto tutti, ma spero che sia un disco che sensibilizzi le ragazze a guardare oltre i loro problemi e a pensare alle vere donne che hanno dei problemi nella loro vita. È un disco di io lo chiamo il disco di passaggio, no? Dove sì, nei primi va bene cantare l'amore, ma va bene anche cantare un altro tipo di amore, che è quello nei confronti dei nostri simili e della vita in generale. Quindi, grazie, grazie Emma, a voi, giovane donna che parla alle donne. Tanti auguri, buone grazie feste. Grazie anche a voi. Essere e benessere. Bentornati, auguri, siamo all'interno di una puntata un po' speciale con me, Alberto Pellai, che io ho invitato per incontrare tre ospiti che ci aiuteranno ad approfondire temi che ci fanno bene in questo clima di festa. E il prossimo argomento voglio proprio introdurvelo con una filastrocca di Mario Lodi, il mitico maestro di Cremona. Basta un papà e una mamma, un figlio o una figlia, per fare una famiglia. Solo chi è solo, poverino, cerca una famiglia in casa del vicino. Le famiglie formano un paese, e qualche volta persino una città. dove la gente è tanta, ma ci sta tutta quanta. Al caldo o al gelo, nella capanna o dentro il grattacielo, nei paesi e nelle città vive la grande umanità. Chi è giallo, chi bianco, chi nero. Ma se c'è la pace, una sola famiglia è il mondo intero. E non vi abbiamo fatto ascoltare questa filastrocca solo perché è davvero bella. Questo potrebbe essere già un buon motivo, ma anche perché viene utilizzata dalla tata più famosa d'Italia come inizio del suo nuovo libro Fate Famiglia, pieno di consigli che in questo periodo ci possono davvero essere utili. Intanto, ciao tata Lucia! Buongiorno! Auguri! Auguri! Caspita, siamo in piene feste. Siamo in piene feste. Come è andato il Natale? Benissimo, grazie, benissimo. Io ho 4 splendidi nipoti, quindi i Natali sono sempre belli con i bambini. Ecco, e quindi, come si dice, fate famiglia. Certo, certo. Il titolo del tuo libro, che in parte è anche un po' una sfida di questi tempi, come scrivi d'altronde anche tu. Sicuramente, sicuramente ci si è un po' adagiati purtroppo solo sulla coppia ultimamente, mentre invece il fate famiglia è un passaggio secondo me molto importante, nel senso che si passa dall'io al noi, quindi è importante. Tra l'altro proprio il libro si apre con questa provocazione, c'è un capitolo che chiede ai genitori: ma voi siete coppia o siete famiglia? Bravissimo. Dove sta la differenza? Qual è la risposta giusta? Perché la coppia, soprattutto al giorno d'oggi, è in fondo l'unione di due single che continuano ad essere single. Tant'è vero che questa coppia si vanta del fatto che loro lasciano piena libertà all'altro. Cioè, se l'altro vuole andare in montagna e io preferisco il mare, lo lascio tranquillamente andare in montagna e dico: io gli voglio bene perché gli lascio fare quello che vuole. In famiglia questo non può succedere, perché ci sono delle persone che sono i nostri figli, i quali non sanno cos'è bene per loro, e quindi ci deve essere qualcuno che trasferisce dall'io al noi tutti insieme. Ecco il segreto di fare famiglia, e noi che la conosciamo bene, la tata Lucia, ci rendiamo conto che altro che una tata per i bambini, questa è una tata per i genitori. Senti tata Lucia, nel tempo delle feste è un momento speciale, ecco, in questo senso, e quindi penso che alcuni dei tuoi consigli possano aiutare i nostri ascoltatori che sono alle prese appunto con la famiglia. Noi ne abbiamo selezionato qualcuno. Tu ci aiuti così a ce li traduci? Sicuramente. Ecco, il primo è: il tempo uno a uno. Che cosa si nasconde dietro questa frase? Nel senso che in famiglia ci deve essere comunque sempre un tempo molto più personale rispetto a questa comunità, a questa società che è la prima società del bambino, la famiglia, ma ci deve essere comunque un tempo uno a uno. E quindi uno a uno è il tempo che ogni genitore, ogni adulto dedica ad ogni bambino e viceversa. Certo. Quindi il consiglio in questo caso è: oltre a trovare momenti di convivialità dove siamo tutti insieme, ci devono essere anche dei momenti specifici dove ogni bambino ha la sua personale quota del suo genitore. Esatto, così come con i regali. Io suggerisco di fare sempre un regalo alla famiglia e un regalo ad ogni singolo. Sì. In fondo il nostro tempo deve essere così, per tutti e per ciascuno. Senti tata, uno dei tuoi consigli, il secondo consiglio, ha proprio a che fare anche con il periodo che stiamo vivendo. Tu dici che per fare famiglia bisogna trasformare il tempo delle vacanze in tempo di qualità. Certo, certo, perché è un tempo che abbiamo veramente a disposizione tutti insieme, e quindi uno può anche decidere di vivere diversamente questa unione familiare. Il mio pediatra Santuomo mi diceva sempre: non è importante dove tu vai in vacanza, l'importante è vivere una vita diversa. Perfetto, allora Tata, tu diventa la Tata della mia famiglia. Io, mia moglie, i nostri quattro bambini. Dacci sì. tre esempi concreti di cose che ci renderanno speciali questi 15 giorni di vacanze di Natale che abbiamo di fronte a noi. Benissimo, per esempio potrebbe essere esplorare ogni giorno una via diversa di Milano, per dire la via dove sei nato tu. Porti i tuoi figli a vedere la via dove sei nato tu, magari trovi ancora la stessa casa, portali, oppure decidi invece che cambi completamente la camera da letto, fatti fare un progetto dal dato dei tuoi figli che nomini architetto, cioè una cosa diversa, estemporanea, diversa dal solito. Tu che cosa farai oggi di diverso dal solito, Tata Lucia? Oggi in parte sto già lavorando, però comunque a me piace molto organizzare queste cose con i miei nipoti, con i miei figli, proprio estemporanee. Senti, per Tata, esempio... ma con i tuoi nipoti e con i tuoi figli sì. tu vai in cucina? Come no? Come no? Allora voglio farti fare gli auguri, degli auguri sì. speciali alla nostra prossima amica che è in linea con noi. Abbiamo Serena Autieri. Ciao Serena. Salve, buon pomeriggio a tutti. Uno saluto. Pensa, se sì. c'è Serena Autieri si sale su un sì. palco, infatti Serena è sul palco, è al Sistina esatto, di Roma. Con un piede sul palco e uno fuori per parlare con voi. Con Rinaldo sì, in campo. Siamo in prova con Rinaldo in campo. Sì, siamo al Sistina, abbiamo debuttato da pochi giorni e saremo fino al 22 di gennaio. Tra l'altro è uno spettacolo targato Massimo Romeo Piparo e lo spettacolo è scritto da Garinei e Giovannini, era stato interpretato sì. da Domenico Modugno e Delia Scala nel 61. Sì, le musiche di Mimmo Modugno e Domenico Modugno, sì, fantastico. Nel 61. Sì, chiudiamo i festeggiamenti del 150esimo d'Italia. Con questo spettacolo meraviglioso che già all'epoca fu un grandissimo successo, poi con una replica, con una ripresa da Massimo Ranieri 25 anni fa, e quest'anno lo riprendiamo noi proprio per chiudere i festeggiamenti. Senti, la Tata Lucia forse non sa che Serena Autieri, la stimo e la stimo veramente, ogni volta che ho la possibilità la seguo, anche se non ho ancora bimbi ma ho i nipoti, quindi ascolto sempre i suoi consigli. Vedi Tata, tu sei troppo forte. Ma senti, però la Tata magari non sa una cosa, fai finta sì. di non saperla Tata, certo, anche certo. se so no, che ma la io sai non so tante cose quindi. Abbiamo scoperto che c'è una Serena anche cuoca, ecco, allora, e noi l'abbiamo e noi soprattutto c'è un libro bellissimo di cui io ho già parlato proprio con Serena sì, e si intitola sì. Un pizzico di sale tra le note sì. sul set in giro per il mondo e in cucina appassionatamente come la Tata Lucia si occupa dei suoi bambini e dei suoi nipoti e dei suoi figli in cucina. Certo, ci vuole passione, vero Tata? È sempre una passione, io adoro le passioni che sono insieme gioia e anche un po' di fatica, ecco, come tutte le passioni. Io il 22 ho fatto una cena a casa con solo i miei nipoti, siccome eravamo sotto il Natale, tutti col fiocchetto rosso, una cena in bianco e rosso, capito? Ah, che bello! Fantastico! Senti, ti faremo avere con dedica, magari Serena ce la fa, un libro di Serena. Sì. Oh, sì, sarei felicissima e poi spero di incontrarla presto per fare due chiacchiere dal vivo con lei. Senz'altro, mi sarebbe piacere. Molto volentieri. Mi piace tutti questi auguri, spacciucchiamenti. Alberto Pellai è rimasto qua un po' come un maschio, un po' un pesce. E io fra di voi. Un pesce lesso. Noi ce la godiamo, siamo festaiole, ce lo meritiamo, abbiamo faticato certo, a preparare tutto. Oggi lasciateci sì. chiacchierare, riposare, rilassare. Tata, ci vuole. Tata, ti abbraccio perché acchiappo grazie Serena. Molto, grazie. Tanti auguri a tutti, mi grazie, raccomando. Grazie. Auguri. Arrivederci, grazie. Senti, Serena, e tu come sì. ti sei rilassata oggi? Cosa pensi di fare? La mattina è iniziata da poco, in realtà c'è ancora tutta la giornata, ma tu non riesci a rilassarti. Ma io sono a teatro. Perché col teatro. Io sono in teatro, sono sì, sono a Cistina, quindi noi ci siamo riposati soltanto il 24 e poi ci siamo sempre, ci saremo anche il 30, il 31, a Capodanno, quindi noi festeggiamo insieme. Poi la cosa bella del teatro è che lo spirito si diventa una famiglia quando si cominciano a fare le prove un mese e mezzo insieme, quindi è bello anche ritrovarsi in teatro. Vedi che i libri tuoi e della Tata Lucia si intrecciano, perché tu è un pizzico di sale tra le note sul set, mentre è proprio sul set e nel palco con il teatro fate famiglia. Esatto. Serena, fermiamoci un attimo insieme perché voglio avere da te dei consigli di benessere, anche un po' sfiziosini di cucina per questa cucina delle feste, per parlare del tuo libro che ci porta in giro per il mondo, per spettacoli, un libro bellissimo che io consiglio ai miei ascoltatori. Adesso informazioni sul traffico e poi torniamo insieme con Serena Autieri e il grande Alberto Pellai. Essere e benessere. Ci stiamo scambiando gli auguri, ci stiamo mandando dei baci, dei consigli di benessere. Noi donne abbiamo bisogno e vogliamo rilassarci. In linea con noi c'è Serena Autieri, che a teatro non si rilassa, ma ci aiuta a così rubare magari dal suo grande repertorio culinario, che noi possiamo così scoprire leggendo il suo libro, qualche profumo, qualche sapore, qualche aroma che fa molto Natale. Ecco, allora io mi rilascio comunque facendo gli spettacoli, anche se c'è una grande tensione, sempre un'emozione forte, ma è sempre un momento per una cura dell'anima, dico. È una cura dell'anima anche il cibo per me, e soprattutto il cibo, quello che mi riporta alla tradizione. E appunto, proprio in un pizzico di sale, la cucina per me è un mezzo per raccontarmi e per raccontare le tradizioni culinarie legate alla mia figlia, mia nonna, alle mie nonne, e a mia mamma, a mio papà, che mi hanno trasmesso proprio un grande amore per la cucina, perché cucinare, accogliere a casa è proprio, è magnifico, come dire, volere, certo, bene. No, dire a una persona, a un amico, ti do una parte di me, ti accolgo, ti Serena. Ti do una parte di te, esatto. Il tuo piatto delle feste, prima di salutarti, prima di lasciarti scappare il ancora. Il piatto delle feste, di solito le feste mi ricordano i dolci, perché sono i colori, no? Tanti colori. Mm. Per esempio gli struffoli, noi amiamo moltissimo fare a Natale. Gli struffoli sono queste palline, sì? Poi ricoperte di miele. Sono buonissimi. Di miele, tutti i zuccherini. Delle bombette caloriche. Candita, delle bombette caloriche, ma che mettono allegria. Sì, mi piace, perché il Natale comunque è festa, il fatto di stare insieme, no? Ci si ritrova, anche a volte il lavoro ti porta a stare in giro, quindi, certo, ci si ritrova ed è un momento di festa, di calore, e quindi mi piace pensare ai dolci. Noi facciamo anche la pastiera dalla tradizione campana, certo, quindi... Però per la pastiera ci vuole un po' più di tempo, no? Bisogna aspettare Pasqua. Sì, va bene, ma noi ci sentiremo prima di Pasqua, naturalmente. No, ma noi la facciamo anche a Natale. Allora noi la facciamo sempre. Ci sono delle tradizioni, dei dolci tipici che noi ripetiamo sempre a Natale, a Pasqua, li facciamo comunque. Serena, sì, tanta dolcezza, tanti auguri, in bocca, grazie, al lupo, buon anno. Grazie anche a te, a voi tutti, veramente tutte le persone che ci ascoltano, tantissimi auguri, tanta serenità. Grazie, un abbraccio a voi, ciao, ciao. Il suo alito sapeva di menta, come sempre. Zia Antonia sapeva sempre di menta. Da che se la ricordava, la zia aveva sempre avuto intorno a sé quell'orbitale profumato, frutto di chili e chili di caramelle e mentini succhiati nell'arco di una vita intera. Era una goduria entrare dentro quel cerchio profumato per darle un bacio o abbracciarla. Cosa che fece anche quella sera. Un bacio sulla fronte, un bacio appena appena, per non svegliarla. Ritraendosi dal letto, l'Ernesto tornò nel regno dell'aglio. Un mistero cui bisognava dare una spiegazione. Ed è proprio tra questi due profumi contrastanti, aglio e menta, che origina tutta la storia del nuovo romanzo di Andrea Vitali, che è in linea con noi. Andrea! Buongiorno! Ma auguri! Altrettanto! Zia Antonia sapeva di menta. assolutamente sì. Garzanti Editore, un romanzo che io e Alberto abbiamo considerato particolarmente natalizio. Santo Stefanizio, anzi direi, dato che siamo a Santo Stefano. Alberto. Sì, un romanzo proprio che ci riporta un po' all'origine della nostra vita, ci fa riguardare con occhi di tenerezza i nostri nonni, gli anziani che sono vicini di noi. Un romanzo che ha uno sguardo molto molto delicato sulla vita e sulle persone. Senti Andrea, tra l'altro questo romanzo poggia proprio nel mondo dei tuoi ricordi e ti è stato ispirato non solo dalla fantasia, perché la zia Antonia esiste davvero? Esistita davvero? Proprio lei no, però diciamo che il riassunto di tante persone anziane che io ho conosciuto sia all'interno del mio parentado sia all'interno di una casa di riposo che io ho frequentato anni fa quale medico di alcune delle ospiti, e che mi ha dato appunto l'opportunità di incamerare questo archivio di profumi che poi sono diventati importanti per raccontare la storia di zia Antonia sapeva di menta. Io sono molto contenta perché così oggi pomeriggio che sono in tutto relax me lo vado così a rileggere. Prima l'ho letto con Alberto per preparare un po' la puntata di oggi, ma me lo godo, lo finisco con tranquillità. Tra l'altro un romanzo basato tutto sui profumi. Esattamente. Ma tu che profumo ha il tuo Natale? Dunque, il mio Natale ha assolutamente il profumo del cibo che io prediligo e che per me è il segno del Natale, e che è la gallina bollita col ripieno, in cui non devono mancare gli amaretti. Wow, sono stati tratti bene. Pranzo, questo è il mio pranzo classico di Natale, lo è stato e lo sarà sempre, tenendo conto che, perché Natale è naturalmente un'occasione in cui si mangia tanto, quando si arriva al momento della gallina, la maggior parte dei presenti, dei conviviali sono sazi. Sì. La gallina avanza e si consuma anche oggi, il giorno di Santo Stefano, fredda, con un po' di polenta magari calda, ed è ancora molto più buona, ve lo garantisco. Vedi Alberto, è un certo, po'... perché le cose migliori sono quelle che decantano, che non le fai fuori subito ma le lasci lì e le tieni sospese. Tra l'altro facciamo fare un po' da Tata Lucia anche ad Andrea Vitali, perché Lui è un uomo di lago, ci piacerebbe capire che profumo ha il lago in inverno e se ci consiglia di fare una gita fuori porta al lago in questo tempo di vacanze con i nostri figli, oppure se ha in mente un luogo dove potremmo portare i bambini per scoprire un mondo di profumi che magari nella quotidianità non sappiamo neanche che esistono e che in questo momento dell'anno sono particolarmente intensi. Io un luogo ce l'ho, non vorrei sembrare ripetitivo, però è il paese dove abito. Esattamente, il luogo è quello, l'orario è serale, tardo, quando ormai è buio e quando nelle contrade si riesce ancora a sentire, ahimè sempre più raramente, l'odore dei camini. Allora, quando c'è un'atmosfera brumosa che è abbastanza tipica sotto Natale da queste parti, quando c'è questa caligine che sembra schiacciare verso il basso gli odori, il profumo del camino, della legna che brucia nei camini diventa importante e ti dà il segno di questo periodo festivo che va fino all'Epifania, Epifania che per noi è il culmine, diciamo, di quest'arco temporale. Che tutte le feste in me porta via, Epifania. Quindi bisogna ricordarsi anche di lavorare un po' poi dopo, soprattutto in questi periodi forse diventa ancora più importante. Quindi ci sarà un intasamento di famiglie come la mia a Bellano, che tra le 4:30 e le 5 del pomeriggio saranno tutte lì a fare una gita fuori porta e ad ascoltare i profumi del Natale del paese di Andrea Vitali. A me piacerebbe chiedergli un altro consiglio, lo so che mi allargo, ma no, allargati perché tra l'altro insomma Andrea no, si sa difendere da solo. Penso di sì, anzi, anziché allargarsi gli direi esonda pure, parlando di lago. Perché oltre a leggere i tuoi libri, Andrea, dacci qualche consiglio per una buona... Cosa ci consiglieresti di leggere tu in queste feste di Natale? Dai un consiglio a noi adulti e un consiglio per mettere in mano un buon libro ai nostri figli. Figli di che età? Perché... Guarda, tu spazia, tanto Alberto ne ha 4, una di quelle, un'età giusta la becchi, ecco. Perché io ho recentemente letto 2 libri che mi hanno intrigato abbastanza. Uno si intitola 2 storie sporche, che poi dopo sporche troppo non sono, di Alan Better, che è questo umorista inglese famoso per aver scritto un altro straordinario romanzo che è La sovrana lettrice. E sono 2 storie di donne, 2 donne molto diverse da loro, tra di loro, sui 50 anni, che compiono delle azioni abbastanza rivoluzionarie nella loro vita. Una è una donna simpatica, l'altra è una donna antipatica, la lettura è assolutamente, assolutamente divertente. Il secondo libro è l'ultimo libro di Laura Pariani ed è La valle delle donne lupo, un libro bellissimo, duro, molto bello, ricorda certe atmosfere che anche Mauro Corona frequenta spesso nelle sue storie. È una storia dura, però è un libro che vale assolutamente la pena di leggere. E sicuramente il primo è più adatto, diciamo, a giovani lettrici o lettori, il secondo forse lo consiglierei a qualcuno che ha qualche anno in più. A noi, insomma. Perché abbiamo qualche anno in più noi? Non lo so. Siamo giovanissimi. Perché siamo diversamente giovani. Insomma, sì. abbiamo conosciuto la zia Antonia, abbiamo conosciuto che cosa mangia, saputo da Andrea che cosa mettere nel piatto, perché la gallina ci ha dato anche un buon suggerimento, che è il riciclo dell'avanzo, che mi piace molto. Ci hai detto dove andare, che cosa vedere, che cosa leggere. Alberto, che cosa possiamo chiedere ancora ad Andrea Vitali? Mi sembra che ci ha fatto il pacchetto completo, come un vero e proprio tour operator. Quando torni, Andrea, a trovarci? Quando mi chiamate io sono sempre presente. Mi piace questa cosa qua. Auguri, Andrea, sono contenta. Auguri a tutti voi, buona prosecuzione di feste. Anche a te. Grazie. Grazie, buon lavoro. Buon lavoro anche a te, buon riposo, buon relax a voi. Saluto il nostro coach della festa, Alberto Pellai. Vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia. Se volete fatemi un regalo, scrivetemi, mandatemi un'email a esserebenessere@radio24.it, ma c'è sempre anche di festa il nostro profilo Facebook, così fate contenta me e anche Laura Vanossi. Auguri a tutti da Nicoletta Carbone ed Alberto Pellai. Essere e benessere.